Al-Kalam. Il calamo. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nun, per il calamo è ciò che scrivono. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Per grazia di Allah, tu non sei un folle. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. E in verità ci sarà per te infinita ricompensa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. E in verità di un'immensa grandezza è il tuo carattere. Fasatubsiru wa yubsirun. Vedrai eppure loro vedranno. Bi'aykumul maftun. Chi di voi ha perso la ragione? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Il tuo Signore ben conosce chi si allontana dalla sua via e ben conosce coloro che seguono la retta via. Fala tuti'il mukazzibin. Non obbedire a coloro che tacciono di menzogna. Waddu law tudhinu fayudhinun. Vorrebbero che tu fossi accondiscendente. E allora sarebbero accondiscendenti anche loro. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. Non dare ascolto ad alcun miserabile spergiuro. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Al diffamatore seminatore di maldicenza. Manna'il lil khayri mu'tadin athim. A quel grande nemico del bene, trasgressore, peccatore. Utullin ba'da zalika zanim. Arrogante e persino bastardo. An kana za malin wa banin. Non dargli ascolto, anche se possiede ricchezze e progenie. Iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Quando i nostri versetti gli sono recitati, dice: favole degli antichi. Sanasimuhu alal khurtum. Lo marcheremo sul grugno. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Li abbiamo messi alla prova come abbiamo messo alla prova quelli del giardino che avevano giurato di fare il raccolto al mattino. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Senza formulare riserva. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ. ربك وهم نائمون. Venne un uragano proveniente dal tuo Signore mentre dormivano. فأصبحت كالصريم. E al mattino fu come se il giardino fosse stato falciato. فتنادوا مصبحين. L'indomani si chiamarono gli uni con gli altri di buon mattino. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Andate di buon'ora alla vostra piantagione se volete raccogliere. فانطلقوا وهم يتخافتون. Andarono parlando tra loro a bassa voce. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Che oggi non si presenti a voi un povero. وغدوا على حرد قادرين. Uscirono di buon'ora in preda all'avarizia, pur avendo i mezzi per fare l'elemosina. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Quando poi videro quel che era avvenuto, dissero: davvero, abbiamo sbagliato strada. بل نحن محرومون. Ma poi convennero: siamo rovinati. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Il più equilibrato tra loro disse: non vi avevo forse avvertito di rendere gloria ad Allah? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Dissero: gloria al nostro Signore, in vero siamo stati ingiusti. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Si volsero poi gli uni agli altri, biasimandosi a vicenda. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Dissero: guai a noi, in vero siamo stati iniqui. عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ. È possibile che il nostro Signore ci compensi di questo con qualcosa di migliore. Noi bramiamo il nostro Signore. كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Questo fu il castigo. Ma il castigo dell'altra vita è ancora maggiore, se solo lo sapessero. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. I devoti avranno presso il loro Signore i giardini della delizia. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Tratteremo i sottomessi come i criminali? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.